Capitolo terzo. Il mito olimpico della creazione. All'inizio di tutte le cose, la madre terra emerse dal caos e generò nel sonno suo figlio Urano. Dall'alto delle montagne Urano guardò la dea con occhio amoroso e versò piogge feconde nelle sue pieghe segrete, ed essa generò erba, alberi e fiori unitamente alle belve e agli uccelli. Quelle stesse piogge fecero poi scorrere i fiumi e colmarono d'acqua i bacini, e così si formarono laghi e mari. I primi figli della dea con aspetto quasi umano furono i giganti dalle 100 braccia, Briareo, Gige e Cotto. Poi apparvero i 3 feroci ciclopi monocoli, costruttori di mura e fabbri ferrai, che si stabilirono prima in Tracia, poi in Creta e in Licia. Odissio incontrò i loro figli in Sicilia. I loro nomi furono Bronte, Sterope e Arge, e le loro ombre vagano nelle caverne del vulcano Etna da quando Apollo li uccise per vendicare la morte di Asclepio. I libici, tuttavia, sostengono che Garamante nacque prima dei giganti dalle 100 braccia e che, quando balzò fuori dalla pianura, offrì alla madre terra un sacrificio di ghiande dolci. Il mito patriarcale di Urano fu accettato ufficialmente con l'avvento della religione olimpica. Urano, il cui nome finì con l'assumere il significato di cielo, pare abbia assunto l'importante ruolo di padre e progenitore perché lo si identificò col dio Varuna, della triade maschile ariana. Ma il suo nome in greco è la forma maschile di Ur-Ana, regina delle montagne, regina dell'estate, regina dei venti o regina dei bufali, cioè la dea orgiastica del pieno dell'estate. Le nozze di Urano con la dea madre ricordano senza dubbio un'antichissima invasione degli Elleni nella Grecia settentrionale, invasione che permise ai seguaci di Varuna di proclamare che il loro dio era stato il padre delle tribù indigene, benché ammettessero che Varuna a sua volta era figlio della madre terra. Un'altra versione del mito, citata da Apollodoro, è che la terra e il cielo si accanirono l'una contro l'altro in una lotta terribile e furono poi ricongiunti dall'amore. Questa versione è citata anche da Euripide e da Apollonio Rodio. La lotta tra cielo e terra si riferisce senza dubbio all'urto tra patriarcato e matriarcato che si verificò in seguito alle invasioni elleniche. Il nome Gige, nato dalla terra, ha anche un'altra forma, Gigas, gigante, e nel mito i giganti sono associati con le montagne della Grecia settentrionale. Briareo, forte, era anche chiamato Egeone, e il suo popolo fu perciò quello dei Libio-Traci, la cui dea capra Egide diede il nome al mare Egeo. Cotto fu l'avo eponimo dei Cotti, che veneravano l'orgiastica Cotitto e ne diffusero il culto dalla Tracia in tutta l'Europa nord-occidentale. Codeste tribù venivano dette dalle 100 braccia, forse perché le loro sacerdotesse si riunivano in collegi di 50, come le Danaidi e le Nereidi, o forse perché gli uomini combattevano in gruppi di 100, come gli antichi romani. I ciclopi, pare, furono i membri di un'associazione di fabbri durante la civiltà elladica primitiva. Ciclope significa dall'occhio rotondo e probabilmente essi avevano tatuati sulla fronte dei cerchi concentrici in onore del sole, fonte del fuoco che alimentava le loro fornaci. I traci, infatti, continuarono a tatuarsi fino all'epoca classica. I cerchi concentrici facevano parte del mistero dell'arte del fabbro. Per forgiare tazze, elmi o maschere rituali, il fabbro si regolava su tali cerchi, tracciati col compasso attorno al centro di una lastra piatta. I ciclopi vengono descritti come monocoli, anche perché i fabbri ferrai spesso si coprono un occhio con una benda per ripararlo dalle scintille. In seguito ci si scordò della vera identità dei ciclopi e i mitografi, lavorando di fantasia, dissero che le loro ombre vagavano nelle caverne dell'Etna per spiegare così il fenomeno del fuoco e del fumo che uscivano dal suo cratere. Tra la Tracia, Creta e la Licia esisteva uno stretto rapporto culturale. Probabilmente i ciclopi abitavano in tutte e tre le regioni. L'antica cultura elladica si diffuse anche in Sicilia e può darsi, Samuel Butler fu il primo a formulare questa ipotesi, che l'Odissea fosse parzialmente composta in Sicilia, e ciò spiegherebbe perché vi si accenni alla presenza dei ciclopi nell'isola. I nomi di Bronte, Sterope e Arge, tuono, fulmine e chiarore, sono invenzioni più tarde. Garamante è l'antenato eponimo dei libici Garamanti, che occuparono l'oasi di Giad, a sud del Fezzan, e furono assoggettati dal generale romano Balbo nel 19 a.C. Si dice che codesti Garamanti fossero di origine berbero-cuscita, e nel secondo secolo d.C. vennero sconfitti dai berberi Lemta, popolo che osservava la successione matrilineare. In seguito si fusero con i negri aborigeni dell'Alto Niger e adottarono il loro dialetto. Sopravvivono oggi in un solo villaggio sotto il nome di Coromanze. Garamante è composto dalle parole Gara, Man e Te, e significa il popolo sovrano di Gara. Gara pare fosse la dea Ker o Kure o Kar, che diede il nome tra l'altro anche ai Carii e fu patrona della apicoltura. Le ghiande dolci che costituivano il nutrimento principale dell'uomo prima della coltivazione del grano crescevano in Libia. La colonia Garamanzia di Ammone si unì alla colonia di Dodona nella Grecia settentrionale, formando un'associazione religiosa che, secondo Sir Flinders Petrie, risale forse al terzo millennio prima di Cristo. In ambedue i luoghi sacri vi era un'antica quercia oracolare. Erodoto descrive i Garamanti come popolo pacifico ma molto potente, che coltivava la palma da datteri e il grano e allevava bestiame.